you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Trasmissione senza frontiere, ospitata su Wombat Radio. La trasmissione si occuperà di internazionalismo, di lotte e di storie e curiosità dal mondo. Gettare uno sguardo sull'internazionale, su che cosa succede negli altri paesi europei e più che altro andare anche un po' a vedere, a gettare un po' di luce sulle situazioni di lotta in giro per il mondo. E è nata un po' l'idea, un po' la necessità, insomma, di dover approfondire su questi argomenti qui, anche per uscire un po' dalla cappa mainstream, uscire dall'informazione di regime che ci ha messo un po', come dire, il bavaglio e che al tempo stesso ci impedisce un po' di accedere a delle informazioni un po' più privilegiate e a storie che normalmente non se ne sente parlare. Questa è stata un po' la necessità di tirar fuori uno spazio che vuole essere anche un contenitore, un box di storie e noi speriamo di raccoglierne tante. Ecco. Ricordiamo appunto senza frontiere, questo è il titolo di questa trasmissione che è in onda su Radio Wombat, ora la state ascoltando in diretta e quindi la diretta sarà tutti i lunedì alle 13, mentre le repliche si susseguiranno nel corso della settimana più o meno allo stesso orario, in alternanza con Passaggio a Nord-Ovest, che è un'altra trasmissione informativa, e quindi lunedì alle 13 la diretta di Senza Frontiere e la replica di Passaggio a Nord-Ovest alle 14, mentre invece nei giorni successivi ci sarà la replica di Passaggi a Nord-Ovest alle 13, la diretta di Senza Frontiere alle 14 e via via alternandosi fino al fine settimana. Ricordiamo i social della radio, in particolare Twitter, twitter.com/radiowombatfi e la posta elettronica a cui potete mandare indirizzi, mandare l'indirizzo è postawombat@siberia.net, a cui potete mandare suggerimenti, anche critiche, complimenti, ci farebbero piacere, insomma, e via dicendo. Ricordiamo anche che, come tutte le altre trasmissioni che vanno in onda su Radio Wombat, anche Senza Frontiere avrà la sua sezione podcast, a cui potete accedere andando al menu di Radio Wombat, cioè sul sito, cioè wombat.noblogs.org, andando al menu, i podcast sono il primo menu sulla sinistra, scorrete la lista dei podcast che è in ordine alfabetico, in cui appunto ci sono tutti i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat fino ad arrivare a Senza Frontiere. E oggi appunto prima trasmissione, un po' una presentazione di quello che diremo, di quello che sentirete nella trasmissione. Sì, questa prima trasmissione non ci siamo allontanati troppo, rimaniamo sull'internazionale appena poco più in là del Tirreno, un'isola meravigliosa, un'isola che rivendica la sua indipendenza, un'isola che sta subendo tantissima repressione, più che altro un'occupazione militare da parte dello Stato italiano e della NATO. Quindi in questa trasmissione parleremo un po' della Sardegna. Avremo un'intervista, intervisteremo un compagno sardo che fa parte del comitato Aforas, questo comitato che ha preso le mosse da un paio d'anni circa, ma viene da una storia abbastanza lunga di resistenza, di movimenti popolari contro le basi militari in Sardegna e che tentano con tutte le loro forze, quindi con momenti di approfondimento, con manifestazioni, con feste e via dicendo, di far circolare insomma un sentimento e un, come dire, momenti di informazione e di coscienza, per far salire un po' la coscienza su quello che negli ultimi 40 o 50 anni lo Stato italiano ha fatto della Sardegna, cioè un immenso poligono militare. E quindi ci sembrava interessante andare un po' in approfondire questi aspetti qua, soprattutto per le guerre che l'Italia sta portando avanti nel mondo, nella produzione di armi e nella partecipazione diretta. Quindi questo ci sembrava una cosa molto importante. Le altre puntate più o meno avevamo un po' pensato di strutturarle sull'internazionalismo europeo, quindi andare un pochino ad intervistare o a mettere un po' il naso su quello che succede nei paesi dove ci sono dei grandi sconvolgimenti sociali. Possiamo vedere quello che sta succedendo ad esempio in Catalogna, quindi a breve, a stretto giro, pensiamo di poter avere un'intervista con dei compagni della CUP, una sinistra anticapitalista catalana, che ci spiegheranno un po' com'è la situazione in Catalogna. E poi avevamo pensato di gettare un po' uno sguardo sulle metropoli europee, quindi con delle corrispondenze potranno essere dalle maggiori capitali europee oppure con dei compagni di ritorno e ci racconteranno le loro storie. Storie che non necessariamente riguarderanno magari delle lotte popolari, ma anche delle curiosità o delle storie semplici di persone, di organizzazioni dal basso, di persone che magari anche semplicemente in un quartiere si danno un affare per qualche riconoscimento di diritti sul lavoro o quant'altro. Comunque sia cose che normalmente non si trovano accendendo la televisione o neanche un po' nelle radio più mainstream e pseudo, come dire, contestatori o antagonisti, come qualcuna qua sulle frequenze fiorentine ancora pensa adesso, ma ovviamente non lo è, magari sono semplici lacchè del potere. Ecco, noi proveremo su questo qui ad essere realmente antagonisti, cioè a porre, a gettare un po' in uno sguardo su quello che succede un po' fuori dai nostri confini. E gli inevitabili problemi della prima trasmissione hanno fatto modo che l'intervista sia stata registrata un po' di qualche oretta fa. È quasi in diretta, soltanto appunto era la prima trasmissione. Comunque ci perdonate, vero? Ecco, grazie. E prima ancora di mandare questa intervista, vi ricordiamo proprio a proposito di internazionalismo un appuntamento del Centro Sociale Autogestito Next Emerson per sabato prossimo, Sumut Filastie, una piece teatrale che parla appunto della lotta di liberazione del popolo palestinese, tutto ciò nell'ambito dei festeggiamenti, chiamiamoli così, per gli 11 anni di occupazione del CSA Next Emerson. Quindi sabato prossimo alle 21, prima c'è la cena, chiaramente, poi successivamente ci sarà una milonga, quindi sabato prossimo alle 21 partecipate, venite, andate a vedere questo pièce teatrale che parla appunto della lotta del popolo palestinese. E ad ora l'intervista. Sì, direi che possiamo andare. un rappresentante del Comitato Aforas, che magari si introduce e ci parla un po', ci dice un po' a che punto sono nel Comitato, l'organizzazione delle vertenze, delle lotte e di quello che hanno portato avanti in questi anni, organizzando manifestazioni, momenti di approfondimento con la popolazione, coinvolgimento e via dicendo. Benvenuto. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono Andrea, non sono propriamente sardo, sono casentinese infatti di Bibbiena Stazione. Quindi non ho capito, cosa ci fa un bibbienese in Sardegna? Diciamo così, io sono stato adottato dalla Sardegna nel senso più bello di questa parola. Io sono stato accolto nel senso più vero di questa parola, vivendo quella che è forse una delle accoglienze più ancestrali che ci siano rimaste nel nostro territorio. E hai trovato l'amore? Anche, però non solo, ho trovato dei livelli e delle dimensioni di lotta interessanti che mi hanno formato dal punto di vista politico e personale. E in quanto la Sardegna mi ha dato tanto, io mi sono e mi sento tuttora di dare tanto alla Sardegna, che porto con me e in tutte le lotte che porto avanti. Quindi sono felice di essere con voi, buonasera a tutti di nuovo. E proprio per questa occasione vi volevo, ci collegheremo con i compagni sardi del movimento di Aforas. Aforas, che è un comitato contro l'occupazione militare della Sardegna, cioè una realtà che raccoglie gruppi, individui che assieme lottano per la liberazione della Sardegna dalle basi militari, quindi la valenza della lotta ha una dimensione prettamente internazionalista. È una lotta che si inserisce nel solco di una lunga storia di un movimento e della relativa battaglia contro le basi militari, però dall'altro crede di rinnovare questa nuova lotta, e quello che ha fatto negli ultimi anni è proprio questo, di proiettare la nuova lotta attraverso nuove forme di incontro e di diciamo discussione, riflessione fra i cittadini e per ultima azione nel territorio sardo. Quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi compagni di viaggio, perché sappiamo che non sarà una faccenda breve, e è proprio questo il senso di questa trasmissione. Infatti ringrazio il compagno Marco per questa opportunità, è quello di coinvolgere, di portare a conoscere e di fare questa lotta che apparentemente non riguarda da vicino tutti i compagni e tutte le compagne, ma che in realtà è intrecciata con tanti percorsi che si stanno sviluppando ora in Europa e nel mondo. Quindi io consiglierei di chiamare Michele. Sì, ti volevo chiedere intanto perché Aforas, magari poi con Michele poi dopo approfondiamo un po'. Aforas, intanto che cosa vuol dire? Partiamo dalla lingua sarda. Parliamo dalla lingua sarda, e come vi dicevo non sono la persona migliore per parlare sardo, perché io parlo un casentinese abbastanza stretto, però Aforas semplicemente significa fuori dai coglioni. Oh, che bella cosa. E fuori chi, ad esempio? Fuori lo Stato italiano in primis, e tutti i baroni e i signori della guerra in secondis, quindi la NATO e tutte le loro basi e tutto l'apparato che porta distruzione nel mondo, morti e semina guerre imperialistiche al giro per il Medio Oriente e non solo. Quindi Aforas, diciamo che insomma vengono un po' a esercitarsi dalle vostre parti, ecco. Sì. Cioè, non è che si risparmia un po' le bombette, gli piace tirarle in Sardegna. Diciamo che la Sardegna è il terreno più marcato per quanto riguarda le esercitazioni, quindi la quasi totalità delle basi militari, della servitù militare, esattamente circa il 70% della servitù militare italiana si trova nel territorio sardo, quindi è un territorio che è stato destinato all'industria bellica in tutte le sue forme, dalla produzione di armi fino alla esercitazione. Quindi diciamo che sul territorio sardo si completa il ciclo produttivo di quella che è l'industria bellica in sé, quindi dalla produzione di armi, facciamo un esempio, la fabbrica di Domus Novas, fino ai e queste armi che vengono direttamente testate nel territorio prima di essere sgrangiate nella testa di yemeniti o di palestinesi o di curdi. Infatti, fra i vari eserciti che valcano e che esercitano e che sgangiano bombe in Sardegna ci sono i turchi, israeliani e tutti quelli della NATO in generale. Quindi ciao Michele, siamo qui con Marco, siamo su Radio Wombat. Ciao Michele, benvenuto a Radio Wombat e alla trasmissione Senza Frontiere. Grazie, grazie dell'invito. Ecco Michele, noi stasera volevamo parlare con te del movimento di Aforas e di tutta quella che in generale è la lotta di liberazione contro l'occupazione militare della Sardegna. Quindi sarebbe importante se tu ci facessi una presentazione di Aforas, di cosa è Aforas oggi e di cosa è in generale l'occupazione e la lotta all'occupazione militare della Sardegna. Certo, Aforas nasce il 2 giugno dell'anno scorso, quindi abbiamo più di un anno, e diciamo prova a dare gambe a quello che è il movimento contro l'occupazione della Sardegna, che è sempre esistito sin dagli anni 50, quando furono impiantate nel governo italiano le prime e le più grandi basi militari in Sardegna, quindi qui la Capofrasca e Teulada. Prova ad arrivare a questo movimento che ha avuto alti e bassi in tutti questi anni, sicuramente si è ripreso, diciamo, nel 2014 dopo l'incendio che ci fu a Capofrasca, la grande manifestazione di settembre, dove migliaia di persone si presentarono alle reti del poligono e entrarono dentro le reti. Da allora si sono seguiti diversi momenti, come cortei durante le esercitazioni militari, proprio a Teulada nel 2015, fino a esprimere, diciamo, una sorta di necessità, che è quello di dare continuità e radicamento nei territori, è quello di creare un movimento popolare che potesse in qualche modo dare appunto continuità a questi sporadici momenti di manifestazioni popolari, radicarsi nei diversi territori e intraprendere un percorso che porti effettivamente al raggiungimento degli obiettivi, che sono appunto la liberazione della Sardegna dalle servitù militari, oltre che la dismissione di tutti i poligoni, i risarcimenti, la restituzione delle terre alle comunità e la bonifica di tutti i danni creati dall'occupazione militare. A Faras, che possiamo dire si è strutturato in diversi livelli, un'assemblea generale si riunisce più o meno al centro della Sardegna nei diversi periodi quando lo riteniamo opportuno, e diversi tavoli di lavoro che hanno l'obiettivo di studiare diversi aspetti delle servitù militari sulla Sardegna. Questa è un po' la storia di Aforas e come stiamo lavorando. Per esempio, uno dei gruppi, uno dei tavoli di lavoro che è nato nel primo campeggio svolto l'anno scorso a Lanusei e ha continuato il suo lavoro nel campeggio, il secondo campeggio svolto invece quest'anno a Tertenia, è stato quello che prova ad analizzare le ricadute dell'economia, le ricadute delle basi militari sull'economia, sulla salute e in generale sui territori. Questo per iniziare a smontare con dati scientifici oggettivi i due comuni delle basi, delle basi militari, che porterebbero lavoro, che non inquinerebbero il territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è uno degli strumenti, per esempio, che ci siamo dati. Tavolo appunto sull'economia, che ha prodotto il primo lavoro in primavera sul poligono di Quirra, potete scaricare dal nostro blog Aforas. Aforas.noblog.org, e a breve, la settimana prossima, uscirà un secondo lavoro invece sul poligono di Teulada. Come si diceva Michele, c'è anche di più, cioè la Sardegna, oltre ad avere i più grandi poligoni di esercitazione militare europei, ha al suo interno, nel territorio, anche fabbrica di produzione, quindi possiamo dire che in Sardegna si completa tutto il ciclo bellico che va dalla produzione al testaggio di armi e quindi insomma un altro dato importante su cui riflettere. Sì, purtroppo sì, abbiamo anche una fabbrica di bombe sempre nel Sulcis, nel territorio del poligono di Teulada, ad Uznova. Se in questi ultimi mesi il comune limitrofo di Uznova Sigrevia sta discutendo un ulteriore ampliamento di questa fabbrica di bombe. Ecco, ti posso chiedere, scusami Michele, ti posso chiedere quanti sono gli occupati in queste fabbriche di morte? E qual è un po' il baratto sociale che c'è alla fine? Parlando della fabbrica di Augustova ci sono fonti differenti, diciamo che si parla di un centinaio di occupati che poi a seconda che ne parlino gli estensori o chi va contro il poligono diventano 150 o 60 o 80. Perché ovviamente in periodo di commesse più grosse ovviamente richiedono maggiore quantità di manodopera. Sì, poi immagino ci sia il segreto militare, quindi insomma queste persone non sono neanche troppo disposte a parlare, anche magari quei ragazzi possono aver fatto anche un 3 mesi o un 6 mesi di contratto e poi rimandati a casa, insomma, posso immaginare anche una situazione del genere. No, questo qui era anche un po' per capire anche un po' come era stata riassorbita la disoccupazione sul posto, perché se non sbaglio Domus Novas dovrebbe essere la regione del Sulcis, che se non ricordo male è una delle regioni o delle zone insomma in Italia a più alta disoccupazione, giusto? Sì, assolutamente, diciamo che il Sulcis, così come altri territori come può essere Ottana nel centro Sardegna o Porto Torres a nord di Sassari, ha diciamo subito all'epoca trattava invece di una grande opportunità per tutta lo Stato italiano gli effetti del piano di rinascita, ovvero negli anni 50-60, negli anni 60 si è a fronte di un'agricoltura che stava nascendo, a fronte di una redistribuzione delle terre e di finanziamenti pubblici che sembrava dovessero andare verso l'agroalimentare, verso altre risorse sicuramente più sostenibili e non inquinanti e soprattutto non a lungo termine, si è andato verso un'industrializzazione molto pesante, soprattutto nel Sulcis, dove grazie agli ingenti finanziamenti dello Stato italiano sono nati diversi stabilimenti, tra cui la Saras di San Rocco e quello di Porto Vesme, stabilimenti che sono a cavallo diciamo del poligono di Teulada, che era già lì da alcuni anni prima, agli anni 50, e probabilmente possiamo una delle conclusioni che guardiamo nel prossimo dossier che uscirà è il fatto che queste due importanti fabbriche, soprattutto la Saras della famiglia Moratti, sia lì vicino al poligono anche per una questione strategica. Dicevo, industrializzazione pesante soprattutto nel Sulcis, che nel giro degli scorsi anni in questo decennio praticamente è crollata per via della sua insostenibilità sul mercato, oltre che parliamo degli effetti inquinanti di queste fabbriche. Sì, diciamo, le famose vasche con i fanghi rossi, se non ho letto male, no? Questi posti dove praticamente ci sono questi immensi sversamenti, residui di lavorazioni di metalli pesanti che inquinano praticamente il mare di Porto Vesme e le coste bellissime poi di quella zona, tra l'altro, quindi un danno sul danno, un danno alla popolazione e anche un danno economico sul turismo e altre forme di sostentamento economico che avrebbero potuto prendere piede negli anni, no? Esatto, sì, parliamo quindi di un territorio che da una parte ha subito questi danni importanti, dall'altra diciamo che si è un po' abituato a una sorta di assistenzialismo a parte dello Stato, che finanziava fabbriche economicamente insostenibili che inquinavano e che continua a foraggiare in qualche modo il territorio, drogando anche l'economia. Dal punto di vista, torniamo a parlare del poligono, con quelli che sono gli indennizi pagati ai pescatori per non portare avanti il loro lavoro, sostanzialmente per non lavorare durante i mesi delle esercitazioni. Questo, diciamo, io faccio un parallelo con l'industrializzazione, al di là che rappresenta anche una missione di colpa dello Stato, che dice: io non ti faccio lavorare, il poligono porta diseconomia e quindi devo compensare in qualche modo, pagando delle giornate di pesca non attuate, ma rappresenta anche un modo di rendere prima o poi insostenibile la pesca, perché comunque anche se i pescatori pescano 9 mesi l'anno, ma anche se ne pescassero 11, ma in quel mese, in realtà non è un mese ma sono 9 mesi in cui bombardano il mare nella fattispecie, io non credo che la fauna marina sopravviva a lungo, quindi anche i restanti mesi di pesca comunque sono, come dire, continuando con le esercitazioni non potranno, diciamo, sfamare le future generazioni di pescatori, quindi abbiamo un'economia drogata, diciamo, da questi due aspetti nel Sulcis. Ascolta Michele, allora, questa assemblea nazionale sarda si riunisce a Bauladio di solito e nel mese di Capodanno, così come si chiama in Sardegna, cioè il mese di settembre, solitamente il movimento si ritrova in un campeggio antimilitarista e quest'anno siamo arrivati alla seconda edizione. E questo qui è un aspetto molto interessante di come si organizza e di come struttura il percorso di lotta, cioè all'inizio dell'anno di lotta, cioè nel mese di Capodanno sardo, vi ritrovate in campeggio per discutere di quelle che sono lo stato attuale di cose e diciamo le dinamiche, le azioni future. Sì. Diciamo che il campeggio che abbiamo sempre fatto nel territorio dello Jastra, quindi dove c'è il poligono di Quirra, il più grande della Sardegna e d'Europa, ha avuto sin dall'anno scorso due obiettivi. Il primo è quello di radicare il percorso nel territorio e quindi di stimolare anche le popolazioni autoctone a unirsi a noi e a battersi per la liberazione delle nostre terre. Dall'altro, come dicevi tu, serve a programmare le attività. Difatti i frutti si sono già visti sin dall'anno scorso, ma ancora di più quest'anno. Da una parte, dopo lo stampaggio dell'anno scorso, è nato un comitato territoriale a Cumone Osaka Sarrabus, che appunto fa parte di Aforas, e che quest'anno, dopo il campeggio che è stato a Gertenia, un po' più a sud rispetto all'anno scorso, ha visto, diciamo, aumentare le proprie forze, aumentare il proprio seguito sul territorio. Questo grazie anche a due serate che abbiamo fatto in paese di socialità, che appunto sono servite a presentarsi, a accreditarci in qualche modo nel territorio. Ecco Michele, ti posso chiedere, scusami, un certo. Po' il livello di partecipazione popolare, un po' la composizione sociale, insomma, delle persone che poi dopo si avvicinano, cioè cos'è che percepiscono di sbagliato, no, in questo tipo di occupazione, magari quanto invece un po' la propaganda di regime, no, in questo caso qui, o quella cappa mediatica di dire no, prendi questi posti di lavoro che sono buoni, l'alternativa alla disoccupazione, il militare è bello, insomma, cioè quanto siete riusciti un po' a penetrare nella testa della gente e quali sono stati un po' i risultati in termini di partecipazione? Allora, il campeggio, diciamo che abbiamo fatto due serate a Pretenia, dove avevamo entrambe le serate la piazza piena con 100-200 persone del paese, che ricordo conta poche migliaia di anime, e questo, diciamo, è un primo risultato sicuramente importante. E come? Perché in quel territorio parlare un po' di queer è un po' tabù, primo perché il poligono, diciamo, che porta più busta e paga in Sardegna, però d'altra parte, rispondendo un po' alla domanda che mi hai fatto rispetto a cosa porta gli abitanti per schierarsi contro il poligono, nel caso di Quirra è sicuramente l'effetto sulla salute. Tutti voi avete sentito parlare della famosa sindrome di Quirra, sì. Per la quale c'è un processo in atto, che avviene nei banchi per gli imputati per la prima volta altri vertici militari italiani. Tanto per fare un esempio, sto parlando di sindrome di Quirra, per chi non lo sapesse, ci sono diverse analisi indipendenti, ma parliamo analisi della ASL, parliamo di analisi di università, che parlano di decessi per tumore e malformazione oltre 10 volte superiore alla media, sia per i militari che per gli abitanti nei pressi del poligono. termica è valida per quasi tutti i comuni della Sardegna, e sai per quali non è valida? Non è valida per Villa Puzzu, che è il principale comune del disco del poligono di Teulada, e non è valida soprattutto per del comune di Teulada. Faccio un esempio. I comuni costieri limitrofi a Teulada hanno visto la loro popolazione aumentare del 40% negli ultimi 60 anni, mentre Teulada praticamente la popolazione si è dimezzata, meno 49,5% negli ultimi 60 anni, e poi sono quelli da cui esiste il poligono, per capirci. Quindi dati come questi dovrebbero, come dire, smontare un po' la narrazione militarista che ci dice che le basi portano lavoro, portano sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è proprio esemplare. Ecco Michele, è proprio questo un aspetto importante del movimento di Aforas che vorrei approfondire, vorrei che si facesse conoscere anche qua in Toscana e in continente. È proprio l'organizzazione che si è data, quindi questa organizzazione in tavoli di lavoro che, come il tavolo comunicazione, cerca di portare fuori una narrativa, una contronarrativa, una narrativa fedele allo stato di cose che succede in Sardegna, ci piacerebbe approfondire appunto quello che è l'aspetto organizzativo del movimento di Aforas, quindi quali sono i tavoli che compongono, che la compongono, e come questi tavoli collettivamente si stanno organizzando per affrontare la nuova stagione di lotta, quindi come, che obiettivi ci si pone. E facci una panoramica un po' a livello organizzativo, perché è uno degli aspetti più interessanti del movimento di Aforas, che può insegnare tanto e portare tanto fuori dall'isola anche in continente. Assolutamente, diciamo che fin dal campeggio dell'anno scorso, e poi rinnovando di quest'anno, quello è appunto l'altro obiettivo, la programmazione che ci siamo dato del campeggio, sono nati appunto diversi gruppi di lavoro che sono trasversali a tutti i territori, oltre appunto un tavolo comunicazione che cerca di, come dire, renderci più accattivanti, renderci più più pop, possiamo anche dirlo, a tutti i livelli. Abbiamo diversi tavoli di lavoro. Uno è quello che ho appena descritto, relativo appunto allo studio e analisi delle conseguenze dell'occupazione militare su salute, ambiente, demografia, lavoro, che è quello appunto che ha prodotto il dossier sul poligono di Quirra, e quello che uscirà questa settimana sul poligono di Teulada, e che continuerà a lavorare, diciamo, in questo senso. Un altro ancora è un gruppo di un tavolo di lavoro che si concentra sulla contrastare la narrazione militarista nelle scuole e contrastare le collaborazioni tra università e mondo della ricerca e apparato militare, perché purtroppo in Sardegna siamo una delle regioni italiane con il più alto tasso di presentazioni, diciamo, ufficiali di assemblee di istituto, diciamo, gestite dai militari, che sostanzialmente alle quinte superiori vendono una prosperosa carriera nell'esercito. O ancora dell'università, ancora peggio, dove abbiamo diverse collaborazioni tra mondo della ricerca e apparato militare, ma soprattutto industria bellica. Scusami Michele, tu mi stai dicendo che praticamente si fanno pubblicità nelle scuole o fanno reclutamento? Sì, questa è una cosa che l'esercito fa in tutta Italia, sì. Ovviamente rispetto a regioni popolose come la Lombardia, dove avvengono pochissimi incontri, la Sardegna, 1,5 milioni di abitanti, avvengono, se non erro, 30-40 incontri ogni anno nelle diverse scuole. E come si traducono? Come si traducono in tasso di arruolamento, appunto, se sommiamo fattori come una disoccupazione così elevata, una pressione così forte, una presenza importante dei militari dentro le scuole? Cioè, qual è il tasso di arruolamento dei giovani sardi? È in linea con quello nazionale o è addirittura superiore? Adesso non ho dato esatto, il dato della Sardegna è, diciamo, in linea con quello del meridione dell'Italia. Sicuramente, a tal proposito, posso dire che in Sardegna abbiamo la Brigata Sassari. Brigata Sassari che, con la sua storia, con la sua narrazione, che è quasi eroica, diciamo, del sardo valoroso che si batte, diciamo, per l'Italia. Il motto è Salvita pro sa patria, la vita per la patria, che purtroppo in certe zone della Sardegna, appunto a Sassari, dove ha sede la brigata, è molto benvenuta e molto sentita. Quindi diciamo che non servono solamente questi incontri ad arruolare, ma servono anche in qualche modo a vendere il prodotto militare, che è una cosa positiva, diciamo, per la Sardegna. E questo, diciamo, sarà un altro degli aspetti su cui ci concentreremo in futuro. Questo per quanto riguarda le scuole. Poi l'università, come dicevo prima, nell'Università di Cagliari soprattutto abbiamo diversi esempi di collaborazione tra apparato bellico, industria bellica e mondo della ricerca. Uno di questi è il DAS, Distretto Aerospaziale della Sardegna, presieduto appunto da un docente di ingegneria che si chiama Giacomo Cao di Cagliari, che sostanzialmente dovrebbe portare la Sardegna, così come si dice dagli anni 50, quando è nato il poligono di Quir, nell'aerospazio, nel mondo dell'aerospazio, ma in realtà sappiamo benissimo che industria aerospaziale e industria bellica sono collegate a doppio filo. E il DAS altro non è un mondo nuovo, un modo nuovo di venderci e di foraggiare l'industria bellica, perché ricordiamo che il DAS sono 40 soci, un consorzio di 40 soci, la maggior parte delle industrie belliche, tra cui appunto la Vitrociset, che è un'industria legata al poligono di Quirra, e alcuni soci pubblici che hanno un capitale sociale ridicolo poche decine di migliaia di euro, che però puntano a foraggiarsi con fondi pubblici per appunto finanziare i propri progetti aerospaziali e legati appunto all'industria bellica. Questo per fare un esempio. E quindi un po' gli studenti, no? Mi posso immaginare quando vengono un po' presentate queste cose qui, qual è un po' la reazione degli studenti? Cioè, si sono un po' organizzate, hanno preso un po' coscienza un po' di quello che succede, cioè si sono sviluppati, ora al di là, insomma, del vostro comitato, del lavoro che avete fatto, anche un po' uno spontaneismo giovanile, insomma. Io mi ricordo quando ero ragazzo, insomma, mandare a fare in culo l'istituzione, la divisa, insomma, era uno sport, insomma, che era probabilmente più gettonato in assoluto. E rispetto a un'aggressione, no? Che questa qui è una violenza psicologica enorme che viene perpetrata nei confronti dei ragazzi e delle ragazze. Cioè, mi chiedo, insomma, un po' come ha risposto un po' la popolazione più giovane. Ti ponevo questa domanda. Ma diciamo che in generale la collaborazione tra apparato bellico e università non passa. La maggior parte degli studenti universitari di Cagliari, perché il DAS fa capo soprattutto all'Università di Cagliari, non lo sa neanche, a mio parere. Quello che ti posso dire, infatti, la prima cosa da far sapere in giro è che esiste il DAS, cosa fa e cosa non fa. Per questo, da prima della nascita di Aforas, diversi comitati, soprattutto a Cagliari, spingono subito per questa cosa. La cosa più importante al momento non è tanto convincere uno studente della scuola o dell'università che in Sardegna abbiamo il 66% delle servitù militari, che si fanno tutte le cose che avete descritto in apertura del programma. Non è dirgli è male. La prima cosa a dirgli è che avviene, perché noi abbiamo la situazione in cui la maggior parte degli studenti, facciamo un esempio di una scuola, non hanno neanche la minima idea di quello che accade nella nostra terra. E quindi la prima cosa da fare è informarli. Faccio un esempio: noi, come appunto il tavolo scuola, soprattutto ha fatto due assemblee di istituto, portando dei progetti, cioè dei docenti hanno scritto e fatto approvare dei progetti in cui si descriveva in maniera oggettiva la situazione delle basi dei poligoni in Sardegna, perché tra l'altro ha anche suscitato scalpore, interrogazioni parlamentari, che poi ovviamente sono state respinte al mittente, perché gli è stato detto: guardate che i militari fanno 30-40 incontri l'anno nella quale si fanno propaganda, noi abbiamo fatto due assemblee di istituto con progetti approvati alla scuola, oltretutto, nella quindi quale vi posso fare complimenti perché siete stati efficaci, perché si sono lamentati, quindi avete fatto bene a rompergli le palle, insomma. È andato bene, ottimo. Senti Michele, ascolta, vorrei per concludere, per insomma lanciare un messaggio importante. Uno, parlare di quello che è il programma di lotta di questa nuova stagione. quindi i prossimi appuntamenti, e infine quello che secondo te, so che è una domanda particolare, quello che può essere il contributo che il continente, che i compagni in continente possono dare alla causa di Aforas e del popolo sardo in lotta contro le basi militari, contro le basi militari. Allora, prima domanda. Le prossimi appuntamenti sono imminenti. Dal 14 al 29 ottobre si svolgerà l'ennesima mega esercitazione che riguarderà prevalentemente il sud della Sardegna, ma soprattutto il poligono di Teulada, e anche per questo abbiamo fatto il dossier proprio su Teulada. Sarà una nuova esercitazione che si chiama Joint Star, che appunto durerà 2 settimane e che è divisa in diverse parti. Ci saranno appunto addestramenti a terra e a mare, con la seconda edizione di quella che è stata chiamata Mare Aperto, che è appunto una un'esercitazione che si è già svolta nella sua prima parte in primavera. Noi contro questa ennesima mega esercitazione ci stiamo mobilitando con 2 settimane di mobilitazione che sono già iniziate di fatto da prima, perché oltre a queste 2 settimane noi abbiamo aderito all'appello lanciato dal Comitato del Movimento No dal Molin per un'azione globale contro le basi militari. Dal 7 al 14 ottobre abbiamo iniziato praticamente ieri il martedì 10 ottobre con un sit-in al comune di Cagliari per, ricordo, il comune di Cagliari ospita un porto militare dove attraccano anche navi contestate nucleari, per il quale non esiste un piano di evacuazione, quindi siamo andati a chiedere di prendere posizione al sindaco. Mentre mercoledì 11 si è svolto una prima iniziativa di un altro tavolo nato durante il campeggio, un tavolo che punta a contrastare la logistica civile che cura appunto gli spostamenti di mezzi e armamenti all'interno della Sardegna, con un sit-in davanti alla ditta Fratelli Rubino, che è una ditta che fa logistica a camion in Sardegna. Quindi non stiamo rimanendo con le mani in mano. Infine, sabato 14, ricordo l'altro appuntamento che è nel corteo a Cagliari, appunto contro l'esercitazione Joint Star e contro appunto la presenza di navi militari nucleari nel porto di Cagliari, che appunto sono presenti dal 14 ottobre al porto di Cagliari. Questi sono un po' i prossimi appuntamenti. Ci saranno anche altri appuntamenti che pubblicizzeremo sui nostri canali, sempre dal 14 al 28. Riguardo invece all'altra domanda su quale può essere il contributo dei solidali all'esterno della Sardegna, dico una cosa: oltre che con i tavoli di lavoro che ho parzialmente descritto, poi nel nostro blog trovate tutte le altre informazioni, Afora si sta anche strutturando in gruppi territoriali. Ce n'è nato uno nel Sassarese, uno nel Cagliaritano, uno appunto nella zona di Quirra, e ci auspichiamo che col lavoro con i dossier su Teulada, con la mobilitazione su Teulada, ne nasca uno anche nel Sulcis e che ne nascono tanti altri. Quello che un po' si muove tra i vari sardi emigrati o vicini ai sardi come voi, appunto, è con la costituzione di comitati di Aforas in Italia, diciamo. Questo può essere una prima risposta, ma banalmente anche darci spazio in trasmissioni come queste, o diversi tipi di solidarietà, o collegare in generale lotte può essere utile. Quindi di modi per aiutarci ce ne sono tanti, sicuramente. Quello di oggi, diciamo, è uno di questi. Va bene, Michele, penso che siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ti ringraziamo, ti invitiamo a Firenze a venirci a trovare, e magari anche per un'iniziativa, magari avrete del nuovo materiale, delle nuove storie da raccontarci, e nel frattempo confidiamo, insomma, che compagni e solidali si organizzino e comunque spendano delle parole di appoggio, delle azioni significative per sostenere la vostra lotta e anche la nostra lotta. E quindi ti salutiamo e hasta sempre la vittoria. Grazie mille, ciao. Ciao, alla prossima. Sempre in Nantis, Afora Sanato, compagni. Ciao, ciao. Ciao, Michele. Eccoci, siamo tornati in diretta. Avete appena finito di ascoltare l'intervista al responsabile comunicazione, ai nostri amici e compagni di Aforas in Sardegna. Siamo giunti alla fine della trasmissione. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo